Wender e Fabio Alisei presentano. Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. Prima è tutto un casino di roba che ti viene fuori dal cervello, come se la testa pesasse un grammo e il corpo una tonnellata. Poi ti senti tipo dentro un sacchetto di cuscini di piume o in una bolla di gomma da masticare che un po' galleggia, un po' rimbalza, un po' rotola verso... E te ne stai così, come una medusa a bagno nel Barbon, lasciando scivolare a valle pensieri e parole, trovate geniali e parecchie stronzate, senza preoccuparti troppo, impermeabile al senso, al contesto, al momento. È la fattanza, lo stato indotto dalla sostanza, l'alterazione dell'io generata dall'effetto stupefacente. Diverso da te stesso, spesso più vero, comunque spostato, sincero, alieno, modificato. Sei fatto, zio. Stai come i pazzi. E ci sto pure io. E prima che arrivi la chimica, senti il bisogno di musica. Di un suono che ti accompagni, che ti descriva, che ti traghetti nel tuo viaggio immobile come un caronte di carta. Oggi Polaroid esce dal braciere di un cilum per inalare i pezzi che trascinano la botta a valle come pietre nella corrente. Anno dopo anno, canna dopo canna, canzone dopo canzone, in una raffica di scatti col flash. Prendete carta e filtro. Inizia Polaroid. Istantanee di storia della musica. Ottobre 1998, Los Angeles. Sean ha 18 anni ed è un nerd un po' sminchiato che frequenta le chat di MSN sperando di trovare qualche ragazza con cui masturbarsi. Sean, invece, vive in Massachusetts, di anni ne ha 17, e frequenta le stesse chat per cercare altri programmatori con cui sviluppare un'idea. Creare un software con cui condividere in rete la propria libreria musicale. I due si incontrano per caso nella stessa stanza virtuale. Si annusano. Si danno appuntamento in un'altra stanza, reale questa volta, in un hotel di San Francisco. Sean ha portato $50,000 in una valigetta. Sean, il portatile di suo zio. Ne escono 5 mesi dopo con un'invenzione che cambierà per sempre la storia della musica e che si chiama con il nickname di uno dei due: Napster. Grazie alla loro idea, un DJ controcorrente, il newyorkese Howard Stern, scaricherà una canzone sugli effetti della cannabis, la metterà in radio e la passerà a Kevin Smith per il suo prossimo film. E questa è la storia del successo di Afro Man e della sua confessione scassata. Sto come i pupazzi, gente. I got high. I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. My room is still messed up, and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da da da da da da. I was gonna go to class before I got high. Come on, y'all. Check it out. I could have cheated and I could have passed, but I got high. La da. I'm taking it next semester, and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. Go to the next. Go to the next. Go to the next. I was gonna go to court before I got high. I was gonna pay my child support, but then I got high. No, you wasn't. La da. They took my whole paycheck, and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Because I got high, because I got high. La da da da da da. I wasn't gonna run from the cops, but I was high. I'm serious, man. I was gonna pull right over and stop, but I was high. La da da. Now I'm a paraplegic, and I know why. Why, man? Yeah. because I got high, because I got high. La la la da da. I was gonna make love to you, but then I got high. Help me sing, I'm serious. I was gonna eat your pussy too, but then I got high. Now I'm jacking off, and I know why. Turn this shit off. Yeah. Because I got high. I lost my kids and wife because I got high. Say what? Now I'm sleeping on the sidewalk and I know why. Why, man? Yeah, because I got high. Because I got high. Because I got high. La la la da da da. I'ma stop singing this song because I'm high. Present tense. This whole thing wrong because I'm high. Bring it back. And if I don't sell one copy, I don't know why. Why, man? Yeah, hey, cause I'm high. 2007, 100 km a nord-est di Londra. Secondo il prestigioso dizionario ragionato della stimata Università di Cambridge, esistono ben 21 diverse specie di piante infestanti che ammorbano orti e giardini dell'onesto contribuente britannico, suddito devoto di Sua Maestà la Regina. Tra queste rientrano a pieno titolo numerose varietà di artemisia, centella, amaranto, elianto tuberoso e cannabis sativa, nemiche giurate del bravo agricoltore. Esse vanno dunque recise, estirpate e successivamente eradicate con vigore per impedirne la perniciosa proliferazione. Ed infine bruciate, onde evitare che eventuali semenze, sfuggite alla falce, generino nuove piante infestanti, generalmente definite con il termine collettivo di weed. Appare dunque ovvio che i solerti compilatori del prestigioso dizionario ragionato della stimata Università di Cambridge non si siano mai fatti un cannone. Altrimenti la weed, invece di bruciarla, l'avrebbero girata in una cartina, come fanno tutti i giorni gli amici apathy. Smoke weed every day. To write a song so she can smoke. And the fact that rapping that I don't sit on going joke. As she lit it, took a toast, she choked a little, then she spoke. She said she bought so much weed it'll probably make her broke. But life is heavy, bills are big, and bitches always stress her. So she keeps a bag of bees under her panties in her dresser. She looks so fucking sexy with a blunt between her lips. So I always cop a Duchess from the store on my trips. And she can tell what kind of shit you smoking by the smell. And music sounds better to her when she's high as hell. She grew up playing Cypress Hill and to the death. She said her last dying breath would be the puff with meth. The Chiba Chiba queen, super reefer fiend. Marijuana mama arteries that bleed green. I swear to God, I pray she'll never ever get away. Cause she smoke weed every day. Yeah, I'm puffing, I'm sheepin', jumpin' off the deep end. She feeling, cause I'm off the top when I speak it. And she smoke a lot just like me, and we break it down and we broke. We smoke the pot like a stove, like we cook it, but we book it from the cops on the low. My friends be laughing and cracking jokes in a row full of smoke. I keep her old, hey, where I go, she know I'ma blow. A couple more with ease and we gon' need some snacks from the stove. Hey, bro, I got the dodo. We drinkin', don't forget the photos and the zigzags, low pro. Fuck the popos, I swing a full door. Shit looking like a showboat, and we in high definition. Watch your wishes go up in smoke like seeds. I ain't talk about y'all, be real. I'm taking hits from the bomb. We know that it's right when everybody say it's wrong. I'm on cloud nine, fuck around and I'ma buy me a farm of that bomb. Wishing they dog could sing this song. Let's go. The day. 1979, Kingston, Giamaica. Se cerchi chi ha inventato il jazz, probabilmente non lo troverai mai. Ma se cerchi chi ha inventato il reggae, prima o poi incontrerai Lee, detto Scratch, Perry, l'uomo che ha scoperto Bob Marley. Un passato da giocatore di domino nei villaggi di canna da zucchero, poi un migliaio di dischi prodotti nel Caribe. E infine, l'incontro con questo ragazzo meticcio che fa il saldatore, i suoi capelli puzzolenti e la sua strana religione etiopica. Ma il ragazzo ha qualcosa da dire, pensa Scratch. Così gli mette a disposizione la sua band, gli Upsetters, per tirare fuori il primo album e il secondo e quella musica nuova, che è tipo uno ska rallentato e sta cominciando ad andare anche nella vecchia Europa. Così, un giorno di 10 anni dopo, lui e Bob sono su un aereo e Scratch, con gli occhi rossi, gli dice: «Ascolta, Robert, la strada della vita è difficoltosa e puoi anche inciampare. Quindi, mentre punti il dito, ricordati che qualcun altro sta giudicando te». Bob fa di sì con la testa, prende la chitarra dalla cappelliera, un foglio, una matita e scrive questa. C'è Polaroid. Voglio vederti danzare. Polaroid. Pump up the volume, dance with the speaker till you hear it blow. Then plug in a headphone, cause here it go. It's a full letter word when it's hard to control your body to dance. Istantanee di storia della musica. Oggi parliamo della musica da fattoni. luglio 2000, Independence Day. Ecco una storia con molti fili che si dipartono dal centro come una ragnatela. Il primo porta ad un agente segreto russo, David McCallum, attore scozzese di una serie TV anni 60 intitolata Organizzazione Uncle. Il secondo congiunge McCallum al compositore statunitense David Axelrod, con cui nel 69 compone il brano intitolato The Edge. Il terzo congiunge Axelrod ad un amico, il produttore di Magnum PI, Donald P. Belisario, che su suo consiglio scrittura McCallum nel ruolo di medico legale per la serie investigativa NCIS, Unità Anticrimine, la più vista nel mondo nel 2010. Il quarto congiunge Donald P. Belisario al rapper americano Snoop Dogg, protagonista di una puntata di Law and Order. Il quinto ed ultimo ritorna verso il centro, congiungendo Snoop Dogg al socio Dr. Dre, che prende The Edge di McCallum e Axelrod e la trasforma in un successo mondiale. 30 anni di storia e un solo grado di separazione. Per The Next Episode. JC, my nigga, turn that shit up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Thug niggas, drug dealers, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for sure. Slipped my hoe with 44 when she got in the back door. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker just to swing in my hair. Bitch, quit talking, quit walk if you're down with the sick. Take a bullet with some dick and take this dope on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if your ass get cracked, bitch, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the ass, you'll be relieving the stress. It's the motherfucking D.R.E. Dr. Dre, motherfucker. You know I'm mobbing with the D.O.G. Straight off the fucking streets of CBT. King up the beach, you ride to him in your fleet. Whoop, the field rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop, nigga, what? Spraying Snoop Chronic down in the line. With Doc in the back, sipping on yak. Yeah. Clipping the strap, dipping through hoods. Waterhood. Compton, Long Beach, Inglewood. Stop Central, I put the website. This California love, this California bug. Got a nigga gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on, and my things wrong. Get my drink on, and my smoke on. Then go home with something to poke on. What's up, bitch? Locust on for the 2000. Coming real, it's the next episode. Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey, for my niggas who be acting too bold. Take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey. Su Radio 105 c'è Polaroid. Istantanee di storia della musica. Oggi parliamo della musica da fattoni. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, if you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, your man. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand, make him understand. The world on you depends, our life will never end. Gotta love your man. Bristol, Gran Bretagna. A Robert, Grant e Andrew il termine trip hop fa largamente schifo al cazzo. Lo hanno detto e ripetuto 100 volte in almeno altrettante interviste. Quello che fanno loro è puro e autentico hip hop da negri disagiati della metropoli. È solo più pettinato, più sofisticato, con qualche zampata jazz, qualche inserto lo-fi. Insomma, più britannico, ecco. Ma è hip hop. Punto. Se proprio dovete trovargli un nome, chiamatelo Bristol Sound, ma non trip hop. Che cazzo vuol dire trip hop? Chi mai si sognerebbe di farsi un viaggio mentale sulla musica dei Massive Attack? Beh, a quanto pare si sbagliavano. istantanee di storia della musica, si ferma e torna tra poco, solo su Radio 105. Su Radio 105 c'è Polaroid. Istantanee di storia della musica. Oggi parliamo della musica da fattoni. Cosa importa se è finita? E cosa importa se l'ho ancora usata? O no? Ciò che conta è che sia stata come una splendida giornata. Milano. Signore e signori, siete pronti per una nuova puntata di 1212? Yeah. Senti qua, senti qua! 1212. Il suono è quello della radio. Una voce è quella di Albertino. L'altra invece è quella di J-Ax. La tracklist dice ESA, Chaos One, Giuliano Palma, Sud Sound System, Sangue Misto, Isola Posse e un bel po' di freestyle, naturalmente. Si parla di Ice Cube, della Soul, Public Enemy e poi dei Messaggeri della Dopa, la crew che ha sbarcato l'hip hop su suolo italico, quelli che oggi chiamiamo la Old School. Tra loro c'è un ragazzo nato a Salerno, cresciuto a Bologna. Ha scelto come soprannome quello di un giocatore della Cremonese anni 80, quando ancora stava in Serie A. Uno dei più brutti e scarsi di sempre, Neffa, e ha fatto bene.

Nigeria, that's my motherland. Coming to Sweden now, causing a hysteria. Takes a long time to travel the globe. So why be shy? Why be humble? I just came straight out the jungle. You can't compete with me, cause you know I got the rhythm. I did it before, now we'll do it again. So listen what I say, yeah, I am a point of view. Not everyone can do this though, in fact only a few. Sophisticated, hard curated, that's who I am. You know I've been waiting, so stop pumping. Make some noise. The monica trap, the house, I trap, the flying, trap, the booyah, trap, the Zulu trap. No living in the house, me living in the tree. Let's stick and get your shop, no smoke, no sim, no take no cup. Call me, takes a glass of juice. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. I'm calling on the biggest from the pyramid top to join the beast and peace of our fatherland, Africa. Cause with a boundary we can move the mountains. Drop your personal individual ambitions. Just the devil of a purifier fatherland. African people, come from your vulture. Stand the fame cause you are the era of the mankind. You are the dreams, you are the hope, you are the future. You are the past, you are the grandfather of civilization. This is what ANC want old dog to see. The impossible just takes a little longer. Out of this world and into another world. The earth is spinning round and there is so much to discover. The African man seems to be everywhere. If there are people in the world who know the right is never wrong, stop the fire burning in my home, Africa. Martin Luther King Mandela, you had a dream. Stop evidence and equality for men. Africa for me and Africa for you, the cat. It doesn't really matter where the cat is, black or white. What really matters is to catch the mouse. I'd rather do it in an African way. Hello, Africa, tell me how you doing. Jumping on the mic, cause me rockin' up a fiction. When I hold in the mic, cause me awesome, I'm princess. What do you say to me? I'm me, I'm funny, me, rhyme. Spending me a time on the choices, it's your dime. Try to fight it, fight it, me, you have to realize it. What me, I, what I really want it. Me not flying, I'm just cooling. Come on now, just set it off. Hello, Africa, tell me how you doing. Hello, motherland, tell me how you doing. No more tears in my eyes. There's a hearty, hearty wind blowing south to north. Falling in my head, drying all my plans. If there's a messy in the cloud, who knows the right is never wrong. Move the saddest off my back. I stop the fire burning in my home, Africa. Here comes the news from the mighty Lord. Translation is about to come to end, right? Rapping is digging down river, not to south, to let milk and honey flow side by side. My name is Obamiza, then teach me DJ, hear me DJ, that me have a shot, no snake got an abyssal. DJ name, me no live in a house, me live in a flat. Electricity can give you some, no smoke, no steam, no take no cup. For me, takes a glass of juice. Hello, Africa, tell me how you doing. Hello, motherland, tell me how you doing. ...1996... Cardiff, Galles. Allora perché l'ho fatto? Potrei dare un milione di risposte tutte false. La verità è che sono cattiva. Ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e la prescatola elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di tre pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, brava a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Non ci sono nascoste nella droga. Solo una temporanea alterazione della realtà che contiene una porzione della nostra esistenza, delimitandola fra parentesi fragili. Il vuoto davanti, il vuoto dietro, il vuoto dentro restano. Non spetta a noi il ruolo di giudici e nemmeno quello di cattivi maestri. O forse non più. Ciò che abbiamo fatto in passato è meglio che rimanga privato, sepolto in un remoto cassetto fra qualche cartina, un po' di tabacco e un vecchio scatto di Polaroid. Istantanee di storia della musica torna sabato prossimo. Sabato prossimo alle 19 su Radio 105. Polaroid è una produzione Zodi 105. Ideato da Wender e Fabio Lisei. Voce Lucilla.